GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuovi collegamenti con le capitali europee, più personale, al via la nuova stagione dello scalo regionale di Trieste Airport che, accogliendo la base di Ryanair, si riorganizza per prepararsi all'aumento del numero dei voli. Sciopero della grande distribuzione dopo la rottura della trattativa dei sindacati con Federdistribuzione per il rinnovo del contratto scaduto nel 2019. In regione presidi, davanti alle prefetture di Udine e Pordenone, qualche supermercato è rimasto chiuso. L'anno scorso l'export del Friuli Venezia Giulia ha subito una contrazione percentuale importante, meno 13,7% rispetto al 2022. In termini assoluti le vendite all'estero hanno superato di poco i 19 miliardi di euro. Individuato uno dei responsabili dell'incendio doloso che a ottobre distrusse tre mezzi di un'impresa edile a Sgonico sul Carso triestino, le indagini continuano per identificare i complici e comprendere i moventi. Pasqua e Pasquetta all'insegna della pioggia, neve in montagna per chi ha scelto di passare il fine settimana sugli sci. Riaperta da questa mattina dopo il rinvio dell'ultima ora la ex provinciale 22 che conduce a Clauzetto, era chiusa da novembre a causa di una frana. Si potrà transitare dalle 6 alle 20. Questa notte torna all'ora legale, alle 2 bisognerà spostare le lancette avanti di un'ora. Si dormirà di meno per una notte, ma per 7 mesi avremo un'ora di luce in più a disposizione ogni giorno. Torna a crescere il numero delle linci sulle Alpi Dinariche, un primo bilancio del progetto Life Links che con Ulizza ha visto anche la liberazione di 5 linci nella foresta di Tervisio. Basket Serie A2 ieri sera a Udine ha superato Treviglio per 73-65, Cividale gioca stasera in casa contro Cantù, inizio alle 20, e Trieste ospita Vigevano. Calcio triestina in trasferta sul campo dell'Arzignano Valchiampo, fischio d'inizio alle 16:15. Buongiorno, ben ritrovati dalla Razzani e Francesca Vigori. L'aeroporto di Ronchi dei Legionari dunque sempre più al centro dell'Europa con i nuovi collegamenti di Ryanair per Berlino, Parigi, Cracovia e Siviglia. Con la nuova base al Trieste Airport il colosso irlandese prevede una crescita del traffico del 50% a Trieste, circa 750.000 passeggeri. Quasi tutti i turisti, quelli che incontriamo al Trieste Aeroporto di Ronchi dei Legionari, non stupisce nel weekend di Pasqua, certo, ma è vero che sarà sempre più una realtà. Per questo aeroporto, che da domani dà il via a 7 nuove rotte Ryanair nazionali e internazionali, da Trieste si volerà su Brindisi, Berlino, Parigi, Siviglia, Cracovia, Olbia, da giugno Budapest, per un totale di 18 tratte. Ryanair ha scelto Trieste come sua nuova base italiana, investendo 100 milioni di euro dopo che la regione ha scelto di abolire l'addizionale municipale. E a 24 ore dall'avvio di queste nuove tratte l'aeroporto ha già in organico 35 nuovi dipendenti, altri 35 di assunti Ryanair. La risposta commerciale sui voli è stata ottima, dice Mario Consalvo, amministratore delegato del Trieste Airport, e fa l'esempio del volo per Berlino che arriva martedì 2 aprile. 191 prenotati su 197 posti, quindi super pieno l'aeromobile. Siamo molto soddisfatti di questo, poi partiranno il Berlino, oltre a Berlino il Parigi, il Cracovia, il Siviglia, l'Olbia e Brindisi e i primi di giugno il Budapest. Saranno voli con riempimenti molto alti, quindi vediamo poi tutta la stagione come andrà, ma siamo molto ottimisti. Ryanair ha assunto più o meno 35 persone, 35 anche voi qui in aeroporto. Quanti curricula erano arrivati? Sono arrivati moltissimi, sono 3.500 curriculum che sono arrivati. Noi ne abbiamo assunti 35 perché abbiamo ampliato ovviamente la dimensione anche delle attività, soprattutto operative, l'accettazione ai check-in, ma anche le attività sotto bordo di servizio agli aeromobili. Oltre a queste attività operative anche abbiamo ampliato il settore manutenzione, cargo e all'amministrazione. 24-25 anni l'età media? Sì, quella è l'età media, quindi questo è molto bello, siamo molto contenti, questo è il futuro dell'aeroporto. Ronchi dei Legionari, Anna Vitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Coinvolge alcune migliaia di lavoratori in Friuli Venezia Giulia la rottura delle trattative con Federdistribuzione sul rinnovo del contratto nazionale. Filcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux Will hanno proclamato per oggi uno sciopero che già in mattinata ha compromesso l'operatività alla vigilia di Pasqua di alcuni supermercati. Presidi dei sindacati si sono tenuti in mattinata a Udine e a Pordenone dinanzi alle prefetture. Sentiamo le ragioni dello sciopero in questa intervista. Adriano Giacomazzi, segretario regionale della Fisascat CISL. Voi siete qui oggi davanti alla prefettura di Pordenone per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rottura delle trattative con Feder Distribuzione. Siete anche saliti dal prefetto e avete avuto le prime risposte. Il prefetto con molta coscienza ha preso carico di tutte le istanze che noi abbiamo portato alla sua attenzione e i motivi del mancato rinnovo di uno dei quattro contratti che regolamentano i lavoratori del commercio in Italia. Qual è stato il motivo della rottura? Le richieste irricevibili rispetto alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, a sottoinquadramenti, perché il problema non è solo economico, il problema è dignità del lavoro e dei lavoratori che puntualmente si presentano nei punti vendita. Quanto guadagna mediamente un lavoratore? Siamo intorno ai 1.200 euro netti al mese. Ormai quello che è successo con l'inflazione lo conosciamo tutti, serve un rinnovo di contratto che peraltro non arriva da 51 mesi in questo settore. L'adesione qui in regione sembra che alcuni punti vendita siano rimasti chiusi. Alcuni punti vendita di qualche azienda non sono stati aperti, ci sono comunque difficoltà di organizzazione nei negozi, vuol dire che l'adesione è stata importante perché i lavoratori e le lavoratrici sono stanche di essere trattati in questo modo. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cala del 13,7% nel 2023 l'export del Friuli Venezia Giulia. In termini assoluti le vendite all'estero hanno superato di poco i 19 miliardi di euro. A dirlo l'ufficio studi della CGA di Mestre. La flessione del commercio, secondo la CGA, è in parte riconducibile al rallentamento della domanda internazionale, allo sgonfiamento dei prezzi alla produzione collegato alla normalizzazione delle quotazioni delle materie prime e alla forte riduzione delle vendite all'estero del settore navale, che ha condizionato molto negativamente i risultati di Gorizia e Trieste. Rispetto al 2019 comunque la crescita delle esportazioni è stata del 23,2% e del 44% rispetto al 2008, l'anno che ha preceduto la grande caduta del commercio mondiale. Le merci sono state acquistate maggiormente dai partner commerciali stranieri delle imprese situate in Friuli Venezia Giulia, sono stati i macchinari, i prodotti della metallurgia e le navi. Germania, USA e Francia i principali mercati di destinazione. A guidare la classifica regionale delle province con la maggiore predisposizione all'export è Udine con 7,7 miliardi di euro. Seguono Pordenone, Trieste e Gorizia che però hanno perso rispettivamente il 21,8% e il 38%. È stato individuato uno dei responsabili dell'incendio che poco dopo la mezzanotte del 26 ottobre dello scorso anno distrusse tre mezzi di proprietà di una ditta edile di Trieste parcheggiati nella zona industriale di Sgonico. Si tratta di un kosovaro 32enne con precedenti di polizia, titolare di una piccola impresa edile domiciliato a Mestre. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Eurisine e della stazione di Prosecco, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, hanno raccolto prove a suo carico attraverso attività tecniche e analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Le attività investigative hanno dimostrato come il 32enne fosse giunto sul posto a bordo di un'autovettura assieme ad altri due individui al momento ancora non identificati e come poi, una volta dato fuoco ai furgoni, i tre fossero fuggiti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, Federico Frezza, ha richiesto una misura cautelare al GIP Marco Casavecchia, che ha disposto l'applicazione dell'obbligo di dimora e di permanenza nelle ore notturne e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dell'indagato. Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici e comprendere il movente. Siamo alla pagina del meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a coperto sulla zona montana. Le temperature registrate alle 11 a Trieste e Gorizia 20 gradi, a Udine 18, a Pordenone 17, a Tarvisi a Tolmezzo 14 gradi, a Forni di Sopra 12, a Sappada 8 gradi, a Piancavallo 7 gradi, sul Monte Lussari 5, sullo Zoncolan 3, a Lignano 18, a Grado 17. Ma sentiamo ora il meteorologo Francesco Sioni dell'ARPA per sapere come sarà il tempo a Pasqua e lunedì dell'Angelo. Nel pomeriggio di oggi potremo avere ancora delle precipitazioni moderate su Alpi e Prealpi Carniche con variabilità in generale sulla regione. Del resto per oggi piogge deboli assenti sulle altre zone. Per quanto riguarda la giornata di Pasqua, il cielo sarà in generale da nuvoloso a coperto. Nella notte e al mattino le precipitazioni interesseranno principalmente la zona montana, con quota neve attorno ai 2000 metri circa. A partire dalle ore centrali le piogge poi interesseranno anche le altre zone, ma comunque a carattere sparso e intermittente, con possibilità anche di rovesci, ma quindi anche con possibilità di ampie pause tra una pioggia e l'altra e anche di schiarite. Le precipitazioni saranno in genere abbondanti sulla zona montana, anche intense per quanto riguarda le Alpi e prealpi carniche, sulla pianura da moderate ad abbondanti, sulla costa invece piogge deboli o anche assenti. Domani, per quanto riguarda il vento, soffierà vento sostenuto da sud in quota. Uno sguardo anche alla giornata di Pasquetta: nella prima parte della giornata fino al pomeriggio il cielo sarà da nuvoloso a coperto. Per quanto riguarda la zona montana, lì le precipitazioni saranno più intense e diffuse. Sulle altre zone invece le piogge saranno più sparse e intermittenti, specie durante la mattinata. In genere abbondanti sulla pianura, da deboli a moderate sulla costa. E a partire dal pomeriggio sera, con il passaggio del fronte, avremo dei rovesci o dei temporali sparsi in generale sulla regione, poi possibili schiarite a partire da ovest, ma rimarrà la possibilità di rovesci e temporali sparsi. Riaperta questa mattina la strada della Valcosa che conduce a Clauzetto, nelle prealpi friulane orientali, chiusa da mesi per una frana. Dei sensori collegati ad alcuni semafori monitorano il corpo della frana e in caso di criticità faranno scattare il rosso. A Clauzetto si spera che il tempo possa mantenersi e che la frana non si muova. Riaperta la strada di accesso, la SP22, al centro abitato, chiusa da novembre a causa di una frana, posizionati una serie di sensori di movimento che monitorano la frana, che in caso di movimento stesso del terreno fanno scattare il sistema semaforico che ne inibisce il passaggio. Aspettiamo una soluzione più strutturata, dice il primo cittadino Giuliano Crescutti. Intanto questa soluzione tampone permetterà agli operatori commerciali di tirare un sospiro di sollievo e consentirà a tutti di abbreviare i tempi di percorrenza. La strada è riaperta dalle 6 del mattino alle 20, con tanto di cartelli di segnalazione in caso di forti eventi atmosferici. Clauzetto, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa notte entrerà in vigore l'ora legale. Alle 2 bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora avanti, ciò significa che si dormirà un'ora di meno per una notte, ma allo stesso tempo vuol dire avere un'ora di luce in più a disposizione ogni giorno per mesi, fino al 27 ottobre quando si tornerà all'ora solare. L'ora legale sfrutta infatti meglio la luce solare durante le giornate più lunghe di primavera ed estate e permette di ridurre il consumo di energia. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante 7 mesi di ora legale l'Italia risparmierà circa 90 milioni di euro grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370 milioni di kilowattora, che genererà inoltre un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 170.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Oggi si celebra il Sabato Santo, terzo giorno del Triduo Pasquale. A Trieste il Vescovo Enrico Trevisi presiederà alle 22.30 nella Cattedrale di San Giusto la veglia pasquale. A Udine, con Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, la veglia sarà invece alle 21 con il conferimento dei sacramenti dell'iniziazione cristiana a un gruppo di 6 catecumeni adulti. Alle 21 comincerà anche la veglia nella Cattedrale di Gorizia con l'arcivescovo Carlo Maria Radaelli. Il vescovo di Concordia Pordenone, Giuseppe Pellegrini, celebrerà la messa della veglia nella Cattedrale di Concordia alle 21. Coldiretti afferma che in più di 4 famiglie su 10 si preparano quest'anno in casa i dolci regionali tipici della Pasqua, ma chi non osa cimentarsi in questa sfida si affida ai professionisti. Per il settore delle pasticcerie artigianali questi sono giorni di picco di produzione, ma anche di super lavoro per gli addetti che scontano gli effetti di pesanti carenze di personale. Siamo andati in una pasticceria storica di Trieste. Uova, colombe, ma anche le più tristine pinze e titole. Quelli della Pasqua sono giorni di picco per la produzione dolciaria di panetterie e pasticcerie, soprattutto perché in regione sempre più persone preferiscono il prodotto artigianale. Lo conferma Enrico Eva, segretario regionale di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. L'incremento di richieste si è visto lungo tutto l'anno e incide in particolare durante le festività, quando i laboratori, continua Eva, sono intasati di lavoro. Il problema non è la mancanza di richiesta, bensì la carenza di personale specializzato. In regione si contano 1.330 imprese di alimentaristi e panificatori per un totale di circa 6.000 addetti ed è molto difficile trovare pasticceri e panificatori qualificati. Chi li ha si ritiene stretti. Dal 1 marzo, continua, è in vigore in regione il nuovo contratto a chiamata, frutto di un accordo raggiunto da Confartigianato insieme ai sindacati che, secondo Eva, si sono dimostrati lungimiranti. Le imprese possono chiamare un lavoratore per un massimo di 52 giorni l'anno per weekend e festività, che deve avere tra i 26 e i 54 anni, e questi giorni di Pasqua costituiscono il primo vero test per misurarne l'efficacia. A livello generale il problema è più profondo, dal momento che sono pochi i giovani in regione attirati da questo mondo, soprattutto nel settore della panificazione. Le notti, continua Eva, vengono quasi sempre fatte dai titolari degli esercizi. Presenze più numerose invece nella pasticceria, ma sempre troppo basse a fronte delle richieste. Lo conferma anche Alice, pasticcera di un locale storico di Trieste. È difficile trovare personale qualificato per una produzione standard di qualità. La sua squadra è composta da 4 persone, ma per la produzione quotidiana ne servirebbero 7. Nel settore, a suo avviso, non c'è abbastanza formazione, anche se le scuole mandano giovani in stage che danno un aiuto. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono tante anche per il mondo dell'edilizia le opportunità che offre l'intelligenza artificiale, in particolare potrà essere determinante per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei cantieri. ANCE Friuli Venezia Giulia con le sue territoriali organizza un corso per spiegarlo ai propri associati e per far comprendere come la nuova tecnologia possa contribuire a migliorare l'efficienza operativa e favorire l'innovazione nelle loro imprese. Gli esperti già immaginano che tra soli 5 anni l'intelligenza artificiale potrà essere il copilota dell'imprenditore in tutti i settori, anche nell'edilizia, nei cantieri. Le nuove tecnologie sono ancora agli inizi, ma hanno un enorme potenziale per trasformare il modo in cui i progetti vengono gestiti ed eseguiti, e non solo. Si prevede che saranno sempre più utilizzate nel settore edile per analizzare grandi quantità di dati e supportare le decisioni relative alla pianificazione dei progetti, la gestione dei rischi, l'utilizzo e la manutenzione dei macchinari. L'intelligenza artificiale può, ad esempio, aiutare i costruttori a prevedere ritardi nella messa in opera e lo sforamento dei costi, analizzando i dati storici e identificando le variabili che potrebbero causare problemi, oltre che a evitare errori di calcolo, ma soprattutto potrà essere determinante nel migliorare la sicurezza nei cantieri, in particolare per monitorare il comportamento dei lavoratori, identificare potenziali pericoli e per implementare misure correttive e garantire il rispetto degli standard di sicurezza, una sorta di controllore in cantiere. I sistemi di manutenzione predittiva possono inoltre aiutare a ridurre i tempi di inattività dei macchinari, analizzando i dati sul loro utilizzo, anticipando problemi di manutenzione o guasti. Un percorso di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale, organizzato da ANCE FVG con le territoriali per i propri associati, in programma il 2 e 9 aprile a Udine e Pordenone, punta ora a far comprendere tutto questo e a favorire il cambiamento culturale, con l'innovazione tecnologica come elemento centrale nella strategia aziendale. Si partirà dall'imparare a usare ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale. L'interesse è molto alto, già oltre una 50 gli imprenditori iscritti da tutta la regione. Le opportunità del PNRR e quelle che ci saranno in futuro sono completamente volte all'innovazione e alla sostenibilità. Siamo pronti e consapevoli, afferma il presidente di ANCE FVG Bertuzzo. Imprescindibile per le nostre imprese, aggiunge, essere in grado di governare la trasformazione per affrontare il sempre più competitivo mercato di oggi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Sta per concludersi il progetto Life Links, finanziato dall'Unione Europea per prevenire l'estinzione della lince sui monti Dinarici e sulle Alpi sudorientali. Coordinato con il progetto Lince dell'Università di Torino è ULICA 2, progetto dell'Arma dei Carabinieri, con il quale sono state liberate 5 linci nella foresta di Tarvisio. A Paolo Molinari del progetto Lince Italia abbiamo chiesto un primo bilancio. Il bilancio lo potremo vedere appena tra diversi anni. Per adesso è comunque molto positivo, nel senso che siamo riusciti a riportare alcuni animali dai Carpazi alla popolazione dinarica, rinforzandola sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista genetico, un'operazione molto importante, perché questa popolazione rischiava di estinguersi nei prossimi decenni. In più abbiamo creato un cosiddetto stepping stone, cioè un nuovo nucleo, una piccola popolazione passerella nelle Alpi Giulie, sia in quelle slovene, sempre nell'ambito del progetto europeo Lifelinks, sia con un progetto integrativo e coordinato con i Lifelinks in Italia e il progetto Ulica, di cui sono stati attori principali i carabinieri forestali, il progetto Lince Italia in collaborazione con la nostra regione Friuli Venezia Giulia, in cui è stato creato un secondo piccolo nucleo nelle Alpi Giulie della foresta di Tarvisio. L'obiettivo di questi due nuclei nelle Alpi è di collegare nel medio-lungo termine la subpopolazione dinarica con quella delle Alpi occidentali in Svizzera, quindi ricreando una popolazione alpina. Il progetto però non può dirsi concluso, perché il problema della consanguineità si riproporrà in futuro. Sì, si riproporrà se non riusciamo, prima di un nuovo crollo genetico, a collegare le due popolazioni. Difficile da prevedere oggi la tempistica e il successo di questo progetto, questo rimane l'obiettivo principale, ma potrebbe succedere sì che tra una quindicina d'anni sia necessario reintrodurre altri nuovi individui dai Carpazi per tornare a rinfrescare geneticamente questa popolazione, che per il momento è ancora isolata. Siamo allo sport e calcio. In Serie A l'Udinese giocherà Pasquette in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In Serie C per la Triestina oggi la trasferta sul campo dell'Arzignano Valchiampo. Fischio d'inizio alle 16:15. Basket a 2 a caccia dei playoff, la Gestecco Cividale, che in casa sfida l'Acqua San Bernardo Cantù alle 20. Per provare a entrare nelle prime 8 serve prolungare la striscia di vittorie consecutive, 6. A Trieste alle 20:30 Biancorossi in casa contro Vigevano, 3 vittorie e 7 sconfitte nelle ultime 10 per la squadra di Christian, che ritrova il portoricano Reyes. Ieri intanto Udine ha battuto Treviglio 73-65 pur giocando senza Clark. Sentiamo la soddisfazione del coach friulano Adriano Vertemati. Questa è una partita che credo abbiamo girato con la difesa nei quarti centrali, in una sera in cui abbiamo dovuto rinunciare praticamente a due trattatori di palla, uno era Clark e l'altro Carotti, che era sofferente per un problema fisico che si trascina dal post Trapani, e quindi qualche palla persa di troppo. Siamo stati molto bravi invece a tenere la partita sotto controllo in difesa. Questo è quello che dobbiamo fare nei momenti di difficoltà. Questo era un momento di difficoltà contro una squadra forte, lunga, con tanti giocatori forti, e quando giochi contro le squadre con i giocatori bravi puoi anche perdere. Invece oggi siamo stati più bravi di loro nonostante la situazione, quindi sono molto orgoglioso della squadra. Permettimi di fare gli auguri di Pasqua a tutta la tifoseria di Udine, che anche questa sera è stata numerosissima partecipe, alla quale vogliamo regalare sempre emozioni ogni volta che vengono a vederci. Pallanuoto, nel quinto turno del round scudetto del campionato di Serie 1 maschile, Trieste affronta oggi Savona. Si gioca la Bruno Bianchi, inizio fissato alle 16. Volley femminile in chiusura della fase di pool promozione, Talmassons affronta in casa il Montecchio Maggiore alle 17 al palazzetto di Lignano Sabbia d'Oro. Domani sulla terza rete TV andrà in onda la rubrica Est-Ovest. Eccone un'anticipazione. Gli ortodossi festeggeranno la Pasqua a maggio, il dialogo interreligioso a Trieste in preparazione della visita di Papa Francesco. I bambini ucraini che hanno subito traumi di guerra, il difficile recupero di un'infanzia colpita dalla violenza. La strage jihadista di Mosca inasprisce la retorica bellica, dando nuova linfa all'espansionismo di Vladimir Putin. La Grecia, dopo la pandemia, ritorna ad essere una delle mete turistiche favorite dagli italiani, che riempiono i traghetti dalla Puglia. L'obesità in Serbia, prodotta dalle tradizioni gastronomiche, si sta trasformando in un problema sanitario nazionale. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. È sempre domani, ma su queste frequenze, appuntamento con la rubrica Vita nei campi. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura la nuova campagna di depopolamento dei cinghiali per contrastare il pericolo della peste suina africana. A seguire la storia di Angelo Floramo, che parla di quanto fosse sentita la Pasqua tra la gente dei campi, una festa che coincide con la ripartenza dei cicli vitali. Tra le varietà di susini disponibili sul mercato, una guida per scegliere quelle più adatte alle nostre esigenze. E ancora, nella rubrica dei sommelier, il rapporto tra tecnica di coltivazione del vigneto e le caratteristiche dei vini prodotti. E per lo spazio che dedichiamo alla conservazione dei cibi, di scena l'aglio orsino, erba selvatica sempre più apprezzata. Poi la begonia e lati, orfiore un po' delicato ma ottimo da regalo in quanto simbolo di ospitalità e gratitudine. In conclusione, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nostro giornale si chiude qui, dalla Razzani e Francesca Vigori. Vassia Crisman, Cicce, Caterina Cabrelli che hanno curato la parte tecnica, Samantha Gon che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione, un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.